Radio presenta Quando eravamo il futuro. Un programma antologico, monodirezionale e spazio-temporalmente dislocato a cura di Carlo Sant'Agostino, Roberto Tomaiuolo, Davide Gatti e Simone Pizzi. E cari amici di Runtime Radio, questa doveva essere la settimana di pausa di Quando eravamo futuro. In realtà in un certo senso lo è, perché il team di Quando eravamo futuro in questo momento è un po' dislocato nello spazio e nel tempo, come appunto dice la sigla stessa, perché appunto non era previsto niente. Però poi alla fine mi arrivano dei dispacci, proprio delle comunicazioni da parte di alcuni inviati, perché abbiamo un inviato sul campo addirittura. Pensate, abbiamo una persona che in questo momento non è nella sua postazione tradizionale, ma è sul campo. L'inviato in questo caso è Carlo Sant'Agostino. Ciao Carlo. Ciao e buonasera a tutti gli ascoltatori. Ed effettivamente sì, non mi trovo nella mia attuale postazione casalinga, ma per una serie di cause ancora da determinare, di calcoli probabilistici, statistici stranissimi, mi sono ritrovato disloccato in quel di Centola, una ridente località della provincia di Salernitana, sì, nel territorio del Cilento. E questa voce che sentite è la voce di niente po' di meno che Bonaventura Di Bello. Ciao Bonaventura. Ciao a tutti. Bentornato, se devi dire. Bentornato, caro Bonaventura. Sì, dopo un bel po', infatti. Dopo un bel po'. Però, insomma, abbiamo avuto diversi incontri, no, con Bonaventura durante gli anni. In particolare abbiamo fatto un'intervista nel podcast, una bella intervista video. Insomma, alla fine sai che insomma sei sempre insomma nel, a parte che, come ho detto tante volte, sei stato un po' una sorta di mito della mia infanzia, no? Quindi il fatto di aver poi avuto l'opportunità anche di conoscerti, per me è sempre stato un'emozione della quale mi vanto, insomma, diciamo così. Però la cosa bella è che di solito, quando è capitato di avere a che fare con te, sono sempre uscite fuori delle belle chiacchierate che poi nascono magari progettate in una certa maniera e poi spesso e volentieri prendono una loro esistenza, che è giusto, insomma, con le persone con il giusto spirito, no? con le quali è piacevole parlare. Questo è quello che succede, e diciamo lo preciso, insomma, per quelli che ci ascoltano, che questa non era una live prevista, insomma. In realtà salutiamo anche Gabriele, che vedo essere entrato in chat, quindi questa cosa sta già smuovendo tantissimo, questa live annunciata all'ultimo momento. Diciamo, non era una cosa programmata, avremmo potuto farlo, però poi è capitata in questo modo e quindi non volevamo farci sfuggire l'occasione. Allora Carlo, quindi tu hai preso e sei partito così, proprio senza colpo ferire. Come faccio io, no? Di solito poi a metà strada, mentre sto andando giù, dico: ma forse però se chiamo Simone gli dico che facciamo una diretta. E tu, Simone, ovviamente tutto tranquillamente, ha detto: ma certo, non c'è nessunissimo problema, a figurarsi, non hai assolutamente blastimato contro uno che ti avvisa tipo due ore prima. No, io non lo faccio mai, io sono sempre così calmo. Esatto, va bene, dai. Comunque l'importante è che siamo qua a parlare, che abbiamo un personaggio come Bonaventura che è sicuramente un mito, non solo per te ma per tantissimi nostri ascoltatori, oltre che essere stato uno dei miei primi boss della mia vita. Ma infatti di tutto capi, questo un po' parleremo questa sera, perché lo spunto, quando Carlo mi ha detto: ma dai che siamo con Bonaventura, di che cosa parliamo? Qualcosa di parliamo, cioè voglia argomenti, no? E la prima cosa che mi è venuta in mente ed è la cosa che mi ero segnato nel nostro piano editoriale, perché ho detto ai ragazzi: io un giorno vorrei invitare Bonaventura in Quando eravamo futuro. E io ce l'avevo la mia domanda primaria, no? Magari a loro non gliel'avevo detto. E la cosa che mi sono sempre domandato, caro, è questo: cioè, dato che tu sei, diciamo, molto collegato al fatto che a un certo punto l'home computer è entrato nella tua esistenza, in qualche maniera ha segnato anche il tuo percorso, no? Sì. Cosa avrebbe fatto Bonaventura Di Bello se il computer non fosse entrato proprio nel momento in cui è stato, quindi magari qualche anno più tardi, quindi se tu fossi stato splittato temporalmente, cosa sarebbe stata della tua vita? Cosa immagini? Su che cosa avresti dedicato la tua creatività, ad esempio? Guarda che, allora, tieni presente una cosa, che il computer in realtà è entrato nella mia vita tardi, perché io mi sono trovato a incontrare la tecnologia degli home computer, come quella dei videogiochi eccetera, quando ormai avevo, non solo avevo superato i 20 anni, avevo sui 22 anni più o meno, ero già diventato un marito perché mi ero sposato, quindi ero già in una situazione in cui l'home computer poteva essere un qualcosa che generava divertimento eccetera, ma dovevo anche considerarlo subito uno strumento di lavoro, quindi già l'ottica era diversa di cosa sarebbe, di quella che sarebbe stata incontrandolo magari prima. Se fosse accaduto ancora più avanti, penso che avrei perso molto di quello spirito che ancora rimaneva da ragazzo, diciamo, lo spirito giovanile che mi ha dato quell'approccio. È vero che hai sposato, ma avevi 22 anni comunque. Sì, non mi ero sposato a 20, quindi figurati, esatto. Cioè, già ero un record man del matrimonio. Esatto. E quindi l'impatto è stato quello. Poi c'è da considerare tutte le passioni che avevo prima dell'informatica, perché purtroppo l'informatica, in generale la tecnologia, è una passione molto invasiva dal punto di vista del tempo. Certo. Quindi ti spinge a esplorare sempre cose nuove, perché, tra virgolette, purtroppo è un qualcosa da cui scaturiscono tantissimi aspetti diversi che tu puoi decidere di approfondire o meno. Quindi la varietà di cose che può diventare l'informatica è veramente quasi infinita. Mentre in precedenza le passioni che avevano erano abbastanza quelle standard univoche, che potevano essere il disegno. In precedenza io disegnavo tantissimo, insieme a un amico avevamo fatto degli albi di supereroi dove inventavamo i personaggi, inventavamo le storie, poi li coloravamo e li rilegavamo, quindi venivano fuori degli albi finiti completi. Quindi magari potevo diventare un fumettista, questa è una delle tante cose. Potevo diventare un monaco zen perché ero appassionato di filosofie e discipline orientali. Ah, quello non ti è mai, esatto. Mai lasciato. No, non l'ho mai abbandonato del tutto. Esatto. Oppure potevo diventare un vagabondo, nel senso che mi sarebbe piaciuto girare il mondo con uno zaino sulle spalle, cosa che poi comunque ho fatto da nomade digitale, lavorando ovunque mi trovavo praticamente. Quindi alcune cose un po' me le sono portate appresso, le ho recuperate nel tempo, altre le ho dovute abbandonare, tantissimo la lettura per esempio. Io dedicavo gran parte del mio tempo alla lettura dei romanzi di fantascienza, degli Urania in particolare, ero capace di prendere un romanzo e finirlo in giornata. Sì. Quindi lo lasciavo quando l'avevo finito praticamente. Sì. Cosa che dopo non è più esistita, cioè la lettura per me si è ridotta a una frazione, veramente un 1-2% di quello che era prima. Anche se poi l'hai riutilizzata tutta quella lettura per fare i giochi d'avventura. Esatto. Ecco, per esempio, mi sarebbe piaciuto scrivere, in realtà ho fatto confluire la passione per la scrittura di storie all'interno della creazione dei giochi d'avventura. Quindi un po', diciamo che l'incontro con la tecnologia non ha fatto altro che trasformare alcune passioni e ridurne altre, diciamo un po' atrofizzarle, ma altre le ha amplificate in un certo senso, le ha anche agevolate poi, se vogliamo. Beh sì, poi alla fine è quello che ha fatto per certi versi la tecnologia. Poi chiaramente voi in quell'epoca eravate, noi perché è una questione cronologica, ma voi in particolare insomma eravate dei pionieri, no? Quindi avete acceso comunque un certo tipo di percorso, di meccanismo. Oggi no, si fa un gran parlare, in realtà da molto tempo, da quando la tecnologia digitale ha invaso la nostra vita, che ha creato un'ulteriore rivoluzione, no? Quindi il video, l'audio, questo ha creato una profonda democraticizzazione, no? della possibilità di produrre contenuti, e allo stesso tempo chiaramente ha abbassato in generale il livello della qualità, no? Cioè la quantità di contenuti proporzionalmente alla media della qualità, insomma è più difficile riuscire a trovare magari dei prodotti. E secondo me invece, diciamo, in un momento in cui era più impegnativo, più costoso, no? Anche in termini di tempo, come dici te, magari produrre un determinato contenuto con la tecnologia che si aveva a disposizione, questo diciamo che avvantaggiava un po' la qualità. Tu che ne pensi di questa cosa? Secondo te è una... Sì, ma è praticamente la stessa cosa che è successa quando c'è stata la possibilità dell'autopubblicazione. con un'invasione vera e propria di opere, chiamiamole opere, di tantissimi autori, dilettanti soprattutto, c'è stato un inquinamento della produzione letteraria, quindi ti capita di trovare romanzi che sarebbe stato meglio che non fossero mai comparsi, cioè anche gratuiti sarebbe stata un'offesa metterli sul mercato, diciamo così. Quindi è successa la stessa cosa, è accaduta la stessa cosa con tante tecnologie come le app mobili, come il software in generale, come con YouTube, con i contenuti diciamo anche musicali, perché ci sono tante improvvisazioni magari venute male, però diciamo che tutto sta nel filtrare, ecco, la libertà di scelta è forse meglio rispetto a una scelta ridotta, anche se poi quella, diciamo, c'è una maggiore qualità in generale, però c'è una ridotta possibilità di scegliere quello che più risponde ai nostri gusti. Alla fine, se ho la possibilità di spaziare in modo più ampio in settori diversi, con argomenti diversi e così via, magari impiegherò un po' più di tempo per selezionare, per farmi una mia cernita, una collezione, diciamo così, una selezione di quello che voglio fruire come contenuti, però li avrò anche personalizzati rispetto ai miei interessi, cioè avrò una maggiore libertà di personalizzazione, questo magari sì. Bene, allora Carlo, solo una piccola interruzione, poi continuiamo con questa interessante disquisizione. Gabriele, che si è inserito come nuovo ascoltatore, ti saluta perché dice: segui i podcast di Pizzi e Sant'Agostino. Io già qui ti direi chi te lo fa fare, perché questa è la prima cosa. Sono un ingegnere elettronico che lavora con gli strumenti di oggi, ma estremamente affascinato tanto dalla storia dell'ICT quanto dalla quantum computing che verrà domani. Ciao. Bene, ciao. Ne parlavamo oggi con Bonaventura, infatti, di quantum computing. Infatti. Vedi. Quindi ciao e benvenuto innanzitutto, questo ci fa piacere, benvenuto anche a Walter, e vedevo insomma che c'erano anche gli altri che chiedevano prima, ma c'è quando eravamo futuro, sì, eccoci qua insomma, eccoci. Comunque io riprendendo la tua intervista, sempre quando parlavi, no, magari dell'incontro in cui Vallarino è entrato a contatto con te, così tanto quanto tu sei entrato in contatto con oddio, adesso in questo momento mi sfugge l'autore dell'Avventura nel castello lì. Colombini, esatto. Enrico Colombini, esatto. Sì. Mi spiace per Colombini, non mi veniva, in questo momento c'ho avuto un lapsus, no? Però mi affascina ed è il motivo per cui poi noi cerchiamo di fare questa trasmissione, che sebbene siano passati 30 anni, no, facciamo così, sono passati 30 anni, questi 30 anni ci dimostrano quanto poi in realtà il mondo sia cambiato esponenzialmente di più rispetto a quanto era cambiato nei 100 anni precedenti, magari, no? Come velocità, no? Perché noi, diciamo, oggi entriamo in contatto rapidamente con le persone, diciamo anche a volte anche in maniera invasiva, no? Perché per esempio se siamo sui social network possiamo potenzialmente essere contattati anche da persone che magari non vogliamo, che non conosciamo e via dicendo. Allora era un po' più macchinoso, no? Cioè, facciamo fatica tante volte io per esempio quando parliamo con il nostro figlio facciamo fatica a capire, a spiegargli che ma come facevi a entrare, gli spedivi una lettera che sembra una cosa un po' assurda, no? Nel senso, oggi mi fa quasi ridere questa cosa, come scrivi una lettera, eppure era così, no? Sì, infatti a me, ti dico una cosa, è capitato proprio l'altro giorno di noi, io e la mia compagna, siamo stati per quasi un anno in Tunisia, ad Hammamet. Il nostro padrone di casa, bravissima persona, la sorella, come tantissime persone della loro età, diciamo adulti, oltre i 40 anni, diciamo così, in quella parte del mondo, utilizza un telefono normale, non uno smartphone. Quindi non usa internet, usa il telefono per le telefonate, al massimo gli sms e basta. E praticamente ci siamo trovati vorrei mandare delle foto che avevamo scattato insieme a loro prima di salutarli e di tornare in Italia. Io ho dovuto chiedere a un amico che ha la stampante a colore, un fotografo, di stamparmi le foto che avevo sul telefono. Ho dovuto scrivere una lettera a mano che mi ha fatto una sensazione stranissima, tra l'altro. Tra l'altro in francese, per fortuna c'era Google Traduttore, ecco, in questo caso c'è stato un vantaggio con la tecnologia. E andrò a spedire questa lettera con dentro la foto, delle fotografie, in modo che gli arrivi praticamente. Quindi ho utilizzato degli strumenti che non utilizzavo da adesso, penso, nel 2022. Esatto, nel 2022. quindi c'è avuto un déjà vu poi alla fine. esatto. Ma tu adesso Buonaventura hai scritto anche un libro su tutte queste cose. Sì, ho parlato proprio di quella transizione che ha caratterizzato la mia esistenza, per il fatto di trovarmi a cavallo tra due epoche, tra l'epoca analogica e l'epoca digitale, dall'elettronica pura, standard, dall'elettronica digitale successiva, quindi non so, dal Walkman al lettore MP3, per capirci, quindi proprio un passaggio evolutivo. Il libro, come si chiama? Sì, si chiama Memorie analogiche e memorie digitali, praticamente, sì, è una biografia che ripercorre i primi 36 anni della mia vita. La trovi su? Su Amazon normalmente. Sì. Vabbè, poi dopo, quando uscirà la puntata in podcast, metteremo anche il link. Hai fatto bene a citarlo, perché giustamente, che poi nel senso, noi tante volte ci troviamo a parlare, soprattutto all'epoca quando con Carlo facevamo ancora archeologia videoludica, facevamo questo discorso su quando un prodotto è retro gaming nel senso più storicizzabile del termine, quando c'è invece la linea di confine in cui secondo noi un gioco vecchio non è ancora retro gaming, no? Quindi c'è una rivoluzione, c'è un passaggio, ogni volta ci sono tutta una serie di rivoluzioni che cambiano le cose intorno. Ora, per come nascono le rivoluzioni lo sappiamo, perché l'ha fatto Tizio, ma lo poteva fare benissimo anche Caio e Sempronio. Detto questo, però, noi chi ha attraversato gli anni 70 e 80 ne ha viste delle rivoluzioni. Quante ne abbiamo viste? Io, sapete che alla fine tante volte perdo un po' il conto di questa cosa qui. Sì, la nascita del videogioco, la nascita del personal computer, la nascita di internet, però in fine dei conti è il passaggio dall'economia normale all'economia globale, la globalizzazione, la globalizzazione è quella che ha cambiato, esatto, tutto. Che la globalizzazione sicuramente, però anche il modo in cui si usufruisce la musica, quanto è cambiato? È cambiata 4-5 volte da quando è arrivato il Walkman, no? Perché poi il Walkman poi è diventato digitale, poi dopo la musica non è più fisica ma è solo esclusivamente liquida, no? Cioè, nel senso, quindi alla fine questi sono tutti quei passaggi che noi abbiamo osservato, e a volte magari, se tu ripensi addietro, potevano anche essere disorientanti se uno se li fosse immaginati così rapidamente, no? Assolutamente, anche perché poi, come hai detto, come prima dicevi giustamente, e noi abbiamo assistito a una progressiva accelerazione del cambiamento. Quindi all'inizio c'è stato questo cambiamento, che era un cambiamento a stadi evolutivi molto netti, cioè si passava dal nastro al vinile, dal vinile al CD, dal CD al file, quindi l'MP3 e così via, che erano proprio dei cambiamenti drastici. E di pochi anni uno dall'altro. Nel formato. Dopo c'è stato quasi un rallentamento, perché in realtà l'evoluzione successiva è stata un'evoluzione qualitativa più che tecnologica. Nel senso che eravamo già un formato, non so, il formato video standard, l'AVI, dall'AVI siamo passati all'MP4, cioè, ma in realtà è uno stadio di evoluzione qualitativa del video, quindi una maggiore perfezionamento, diciamo. Sì, ma non una trasfigurazione del formato, cioè non è più un stravolgimento del formato come era prima. No, però si è modificata l'economia e la distribuzione. Esatto. Poi c'è stata anche la rete. Con la rete è passata dal file digitale al download, allo streaming, adesso siamo allo streaming. Ma anche l'aspetto sociale, no? Nel senso, comunque il negozio di dischi, nel quale tu andavi e facevi magari amicizia con il negoziante o con le persone che incontravi lì, e magari ti scambiavi idee, se non addirittura i dischi stessi, insomma, no? Quindi, altro che oppure nell'ambito dei videogiochi, io ricordo per esempio a Roma c'era Per Gioco, che probabilmente era una catena nazionale, e c'erano sti ragazzini là davanti che si scambiavano le carte dei Magic. Oggi è tutto digitale, no? E che non, senza entrare nel merito, no, come diciamo sempre pure con Carlo, perché poi si innescano delle polemiche, se era meglio, sì, se era peggio, non è importante, no? Nel senso, la cosa è che comunque va registrato questo tipo di cambiamento. Nell'evoluzione poi c'è un adattamento delle generazioni successive, ma noi magari a volte guardiamo per una questione proprio temporale, guardiamo una cosa con una certa nostalgia, perché dice però era bello andare al negozio dei dischi, l'odore della copertina, è proprio la fisicità, la fisicità del contenuto. Cioè, tu compri il libro, c'è l'odore della carta, ce l'hai, lo tieni, è un qualcosa che tu possiedi realmente, senti che possiedi qualcosa, ha un peso, ha un volume, ha un odore, ha un senso tattile. Dopodiché, quando il tuo contenuto si virtualizza, non puoi dire ho un bellissimo ebook dei Promessi Sposi di Manzoni. Sì, vabbè, e sti cazzi, come dicevo, cioè, non ho l'edizione di Gustave Doré della Divina Commedia in carta pergamena con i disegni originali, capito? Sì, per me rimarrà comunque, cioè ci sarà sempre un'edizione. Sì. Ma per esempio il vinile è tornato di moda, tra l'altro. Sì, anche se un po' un vezzo, diciamo, nel senso. Sì, è un vezzo, sì, alla fine sì. A noi ci piace l'idea che comunque sia tornato di moda, però in realtà è più quasi, perché adesso c'è questo richiamo, no, al vintage, cioè agli anni Ottanta, quindi c'è questa proprio richiesta di nostalgia che l'industria trasforma in prodotto, poi chiaramente, no? Sì. Perché io ho visto, per esempio, adesso a breve andrò all'ultimo concerto, e poi ogni volta è sempre l'ultimo, ma poi non lo è, degli Oliver Onion, quindi sì. Guido e Maurizio De Angelis, che dicono l'ultimo concerto, e poi dopo un anno e mezzo ne fanno un altro, e l'ultimo concerto. Hanno fatto questo ultimo disco, tra l'altro molto bello dal punto di vista tecnico, degli riarrangiamenti incredibili, veramente belli su determinati brani, con ovviamente delle collaborazioni, ma deludente dal punto di vista della quantità dei brani, perché alla fine sono solo 7 brani, se non sbaglio, 8 brani, che una volta lo giustificavi perché c'era un limite fisico. Oggi una cosa del genere, magari in un cofanetto speciale, magari ti aspetti in qualcosa di più, no? E però insomma, alla fine, cioè nel senso, il prodotto oggi ti arriva magari con maggiore qualità, come dicevi te. E non mi ricordo dove volevo arrivare con questo tipo di discorso. Ora, questa è una cosa bellissima. Comunque, vabbè, dai, comunque. Sì, volevo dire una cosa, Simone. Vai. Allora, io adesso faccio un commento da vecchio, no? Sì. Ma vogliamo mettere un album di figurine con una bacheca di Pinterest? Ah, ecco, bravo. Sì, no, ma poi tra l'altro la bacheca di Pinterest è il commento da vecchio. Esatto. Sì, perché già chiamarla bacheca di Pinterest, un profilo di Instagram. Sì, perché Pinterest è già andato, no, nel senso, esatto, per certi versi. No, tra l'altro, ecco quello che volevo dire sul fatto degli Oliver Onion, che loro poi, annunciando questo disco, dopo qualche settimana c'era stata la notizia che questo disco nella versione vinile era il terzo più venduto nel mondo, il che era anche abbastanza credibile, perché loro soprattutto in Nord Europa, insomma, c'hanno una certa insomma, c'hanno delle credenziali, insomma, sono abbastanza conosciuti. E però mi faceva ridere questa cosa, capito, del vinile, capito? Cioè vantarsi del fatto che cioè il vinile è una sorta di vezzo che è bello, però oggi chi ce l'ha il giradischi dentro casa? È un, no? Feticcio, è un esatto, una cosa un po' così, no? Nel senso, io non guardo sempre con scetticismo al ritorno indietro, no? Nel senso che è chiaramente un ammiccare a una cosa, ma noi lo vediamo, ecco, tante volte con Carlo c'è questo dibattito, no? Molto questo richiamo del vintage degli anni Ottanta nei film, nei telefilm, nei videogiochi, c'è questo continuo richiamo costante, come se gli anni Ottanta fossero stati il momento più bello della storia dell'umanità, no? Basta vedere Stranger Things. Stranger Things è un esempio su tanti, no? Poi Stranger Things addirittura è citatorio anche dei Goonies, di tutta una serie di cose, esatto. Insomma, quindi alla fine, ecco, tante volte dico, ma c'è veramente bisogno di questo? Cioè, nel senso, ce li ricordiamo così meravigliosi? Io me li ricordo belli perché ero ragazzino, però non penso che siano stati migliori degli anni. Sono, sì, sicuramente, perché sono legati a una parte della nostra vita che è la parte dell'infanzia, dell'adolescenza e così via. Quindi è un periodo spensierato, un periodo. Guarda, io mi ricordo negli anni 70. 80, anzi, negli anni 80, che c'era lo stesso revival che abbiamo noi adesso negli anni 80, negli anni 80 c'era degli anni 60. Sì, un ventennio, sì, non direttamente il decennio, ma si partava, sì, si partava, passava cioè, negli anni 80, diceva, gli anni 60, è la musica degli anni 60. Vero, vero, vero, assolutamente vero, ma quanto però nel passato questo diventava prodotto alla fine? Perché oggi, no, oggi è diventata una cosa assurda. Sì, cioè, adesso è molto più commerciale. Cioè, oggi tu non vedi una cosa dove non c'è un logo di un'audiocassetta, ma le audiocassette, cioè per chi ha ascoltato un CD, all'audiocassetta non ci tornerebbe mai neanche lontanamente, se non per una questione così semplicemente affettiva, no? Tu magari ti compri il mangianastri, metti la prima cassetta, la senti, ti ricordi che bello quando era, però poi dici vabbè, ma che è sta monnezza, mettiamo una musica bella, la MP3 sul cellulare, anche lo streaming di sì, vabbè, poi lì è anche un po' l'audiofilia, c'è cioè anche un po' il discorso, diciamo, della ricerca della qualità audio in generale, che sì, ma la qualità audio della prima cassetta, col vinile c'ha senso, con la videocassetta sì. No. Ma per esempio, ecco, questa cosa qui puoi farla, diciamo, come paragone. Io c'è stato un periodo in cui io ho messo da parte il televisore a cristalli liquidi, l'LCD, eccetera, sono tornato al tubo catodico. Ma lì ci sono delle motivazioni tecniche, tecnologiche, sì, che ci possono stare. Perché il colore era più caldo, sì, perché c'era una luminosità diversa, sì, cioè, sì. Ma l'audiocassetta no. No, l'audiocassetta, tra l'altro, si inceppa pure. Esatto, si sente male, si sente peggio, è tutto più. Il nastro tende a dilatarsi, per cui distorce il suono. Ha ragione, nel senso che se vuoi una qualità analogica vai sul vinile, sì, allora sì, quello sì, è un altro paio di maniche, però vabbè, però sono le mode, dai. Ma io mi ricordo c'è stata una volta una sera una sorta di polemica con la moglie di un nostro amico che praticamente lei diceva: lei, io ho ancora le cassette VHS e mi guardo quelle perché per me l'immagine del VHS è più vera. Gli ho detto scusa, a parte che negli anni 80 niente era vero perché era tutto strapatinato e via dicendo, no? Ma poi che significa l'immagine è più vera? Dice: ma la vita mica è in HD. Io ho detto: allora c'hai problemi di vista, cioè nel senso se c'hai 200 linee, cioè vedi a 200 linee, tu, nel senso, un po' così, capito? Quindi vabbè, è una vita in bassa definizione, sì, molto in standard definition una volta si chiamava, insomma, quindi. E niente, poi un'altra curiosità che mi veniva, e parlavo un po' oggi con Carlo, no, del fatto che voi eravate insieme nella redazione di TGM, rivista che noi consumavamo ogni volta che usciva. Oggi è saltato fuori il numero uno di TGM, esatto, a caso di Buonaventura. Abbiamo recuperato la collezione dei primi, quanti numeri? 30 numeri, qualcosa del genere. Che roba inestimabile. Erano proprio le mie copie praticamente, che io avevo dimenticato di averle archiviate in un sotterraneo o in un dungeon. Esatto. E sono saltate fuori praticamente, sì. Allora, salutiamo intanto Andrea Trevisan che ci è venuto a salutare, Debora che ride alla frase una vita in bassa definizione, sì, perché era così, ma tu poi, Debora, lo sai che insomma sei un'appassionata di pixel art, quindi più bassa definizione di quella non c'è niente. E TGM con il cuoricino da parte di Filimberto. E beh sì, allora io lo devo dire, lo sto per dire, io amavo più K che TGM. Eccolo lì. Però le compravo tutte e le amavo, sì. Le amavo perché le sfumi. No, K, tanto di cappello, mo ci vuole. Poi adesso K era fatto dallo studio Vite, che sì, era quello che era quello che faceva Zap prima. Che esatto. Che devo ringraziare perché avendo abbandonato l'editore ha costretto me a fare Zap e poi TGM. Sì, che quindi. Poi lì c'è la storia bellissima che non so se l'aveva già raccontata Buonaventura di come hai come ha fatto Ferri l'editore a convincerti a fare Zap al sì, posto dello studio Vint. Ah, come si dice, ha sfondato una porta aperta perché praticamente mi ha detto, dice, lei ci dice di quello di cui c'è bisogno e noi lo compriamo. E io erano anni che morivo dietro al Macintosh. Ah sì? Io vado, ah sì? Era ce lo paga lui. Corro subito. Era meglio che non te lo diceva. Buonaventura era sbavava come tutti nei negozi guardando i Macintosh che costavano un sacco di esatto. soldi. Il giorno dopo dice, quello che vuoi te lo compro. Ti è, voglio questo, ho fatto benissimo. Non solo questo, quanto ti hai fatto spendere? 25 milioni. 15 milioni. 15 milioni. Sì, 15 milioni perché tra la stampante laser, il Mac, il monitor esterno, perché ci voleva quello A4 per fare, per giustamente per impaginare. Vabbè, era mutuo comunque, senso, era mutuo, insomma, che era un costo impegnativo. Sì, assolutamente, assolutamente. Considera che io praticamente prendevo 1,5 milioni per fare un numero della rivista. Che era niente. Che era niente, perché chi lo faceva prima di me ne prendeva forse 15 milioni, perché era un gruppo di persone. Io da solo dico, vabbè, ma sì, tanto è tipo uno stipendio, 1,5 milioni. Non immaginavo neanche poi che lavoro ci fosse dietro, poi l'ho scoperto dopo. E tu sei passato dal fare le avventure, tu lavoravi già per... Sì, per lo stesso editore. Lo stesso editore, facevi le avventure testuali. Esatto, esatto, facevo Viking. Due riviste, Viking Explorer, sì, sì. Ed erano praticamente 12 giochi al mese, arrivati al punto di farne 12, perché erano 3 più 3 per Commodore 64, 3 per MSX, 3 per Spectrum, tutte da fare, diciamo, da zero, nel senso che le storie potevano essere le stesse poi trasformate nell'altra piattaforma, certo. Però bisognava rifare tutto a mano, perché non è che c'era un convertitore, no, certo, infatti, per trasformare un formato nell'altro, andava ricompilato tutto a mano, database, tutto il resto. In Basic le scrivi sull'MSX, in Basic, dal modulo di Colombini, appunto, che abbiamo nominato, sì. E mentre le versioni per Commodore 64 e Spectrum c'era un tool, il Quill, che nel quale tu facevi la tabella con tutto il dizionario, le descrizioni dei luoghi, sì, i verbi, gli oggetti, le frasi e così via, e le varie situazioni a seconda se fai questo succede questo e così via. Quindi era poi da lì, siccome facevi quelle, a un certo punto le riviste di avventure, le cassette sono andate fuori moda, perché abbiamo intasato il mercato, cioè noi vendevamo dei giochi che per essere risolti richiedevano anche un mese. Ne vendevamo 3 al mese, sì, a un certo punto chi le ha comprate ha detto ok, sto bene per altri 10 anni, e non ne ha comprate più praticamente. Al che mi sono trovato disoccupato, letteralmente. Anche io le avevo prese un po', poi dopo sì, non riuscivo a finirle, forza, perché erano troppo lunghe. Arrivato a quel punto dice guardi, purtroppo non si vendono più, e io sono rimasto disoccupato, disoccupato. Passato un mese di transizione, di sabbatico. Proprio in quel mese è successo che lo studio Vita, io non lo sapevo questa cosa, è successo che lo studio Vita ha deciso di mollare l'editore per fare K praticamente, sì, per mettersi in proprio. E l'editore mi fa, ma Di Bello, lei se la sentirebbe di fare una rivista? Ecco, fare una rivista, io sono nato pronto. Una frase astratta, esatto. Era una frase astratta, però quando te l'ho detto, puoi comprarti tutti i Macintosh che vuoi, sì, allora hai detto sì. Finalmente, per mettere mano su quei Macintosh, prevedeva anche l'uso del Mac, ho detto ok. Ecco, questa è una cosa che mi interessa un pochino, no? Intanto salutiamo un ennesimo Gabriele, che entra anche lui, insomma, tra gli ascoltatori di Rante Medio, vedi quanti ne porta, Buonaventura. E Filiberto dice, si faceva la colletta per comprare DGM, e tu ci scherzi, ma a me è capitato diverse volte, magari di fare la raccolta delle 100 lire dentro casa, ma non soltanto, diciamo. Una volta mi ricordo che mi sono messo davanti a un'edicola, dietro l'edicola, che chiedevo, scusi signore, c'ha 100 lire? Tipo i drogati praticamente, perché era uscito di GM, io non c'avevo lì per lì i soldi, ma l'avevo visto, perché io uscivo di casa, andavo dall'edicola, è uscita di GM? No, guarda, ancora non è uscito. Ah, vabbè, andavo in giro, vedevo un'altra edicola che c'aveva di GM, e no, cavolo, questa c'ha il TGM, la devo comprare assolutamente, ma non ero preparato, cioè non ero, dovevo inventarmi qualcosa. La striscia di TGM da sola valeva l'acquisto, ci dicono, insomma, quindi. E poi Andrea Trevisan dice TGM Zap, tutto ciò che leggevo andando a scuola. Ma cioè, lo leggevi a scuola o andando a scuola? Vabbè, nel tragitto per la scuola, infatti. Ricordo, ma non sono sicuro fosse TGM, che ogni tanto uscivano i Pesci d'Aprile mostruosi sui videogiochi. Ma veramente un po' tutte le riviste, sta cosa. Anche se credo che forse TGM l'ha fatta per primo. Da lì in poi è diventata anche una moda. Perché sì, lui diceva, si ricorda l'annuncio del seguito di Zack McCracken. Esatto, quello era su Zap, però. Su Zap, sì, era su, sì, Zap, insomma, quindi sì. Io mi ricordo che la grafica l'ha disegnata Papandrea, che aveva fatto anche le faccine lui, se non sbaglio. Sì, esatto. Giovanni Papandrea. Invece mi pare che XUK fecero una volta il seguito dei Monkey Island, che poi dopo ce ne sono stati dei seguiti dei Monkey Island, purtroppo. TGM ci fu il mitico scherzo che andarono avanti anni a chiedercelo, di Street Fighter, sì, versione americana per Amiga, che era la versione più bella di Street Fighter, che faceva schifo, che era uscito della US Go. Allora tutti che ci dicono, quant'è che esce? Sì, poi tra l'altro mettevamo in difficoltà gli importatori di videogiochi in Italia, la leader in primis, esatto, per queste cose, perché chiamavano loro per dire, ma scusate, ma sto gioco allora arriva o no? Esatto. Vabbè, dai, voi sì, voglia mettere le smentite il giorno, no, non ci credo, su Dark McCrack, ecco, quelle erano le prime fake news, sì, praticamente. Sì, no, vabbè, ma i fake news poi in realtà ce ne sono state nella storia in generale tante volte, però la cosa che mi domando, dato che poi con ne hai fatto accenno, noi abbiamo fatto pure la puntata quella sull'editoria, no? Sì, si faceva accenno al modo in cui si costruiva una rivista appunto all'epoca, no? Quando insomma diciamo il desktop publishing era neonato praticamente, insomma, sì, quindi non era neanche poi alla portata di tutti quanti le riviste, come si lavorava? E questa è una cosa, al di là del fatto che tu eri più grande di loro e loro in redazione facevano i cazzaroni e magari tutta la bianca, questa è una cosa da dire, nel senso, sì, che beh, allora quanti ne abbiamo un po' di differenza? È sempre un decennio più o meno, è uno io sono del 70, tu sei del 63, quindi alla fine 7 anni, sì, sì, beh, sì, 7 anni non sono tantissimi, non sono tantissimi, però io quando dipende dall'età. Sì, ecco, perché quando io ne avevo 19, esatto, sono arrivato in redazione, tu eri il signore grande, il capo che aveva già sposato con un figlio. Esatto. E infatti, e gli altri erano più piccoli di te, perché tutti c'era più piccoli, Marco, sì, era ragazzino, sì, Marco aveva 16 anni. Scusa Carlo, 18, permettimi Carlo, facciamo un esperimento di meta radio? Facciamo un esperimento. Gabriele, fai un urlo? Non lo fai un urlo, Gabriele, fammi sentire. Ah, c'è quello seduto sul divano. Fai l'esperienza, Gabriele, va. Ecco, vedi, no, è per questo, no? Perché ho letto il messaggio nella chat, dico, cioè, ciao, io sono qui. Vabbè, allora facci sentire che sei qui, insomma, giustamente. Gabriele. Sì, la collezione di TGM è praticamente nelle mani di Gabriele. Non dovevi dirlo. È di Zap, quindi con grande invidia di tanti spettatori e ascoltatori. Sì, qui partono le cacce. Ecco, questa è una cosa, poi ritorniamo all'argomento di cui ci stavamo parlando. Io se veramente c'è una cosa della quale mi mordo le mani in generale, ma credo io, mia madre, insomma, che non c'era e non ci poteva essere, secondo me, la percezione che quello che tu avevi in mano, ma io parlo anche di computer, che quello che, sì, tu avevi in mano un giorno avrebbe assunto, insomma, anche un valore storico, no? Tu, abbiamo parlato anche di quello oggi, tra l'altro, le quattro fasi, i quattro stadi di qualsiasi oggetto. Io considerate che avevo tutte, e ripeto, tutte le riviste di List, che per me era una bibbia. Io con List ci ho imparato tanto, no? Perché copiavi VIC-20, ma anche quando c'era il Commodore 64, cioè io comunque alla fine copiavo i listati e modificavo e vedevo quello che succedeva e da lì capivo quello che poi ovviamente è arrivato, esatto, il famoso corso della Beatrice d'Este, no? Quello conoscere il computer direttamente dal computer, che io cito sempre perché per me è stata anche quella una grande bibbia, no? Ecco, tutto questo materiale, no? Che poi uno un giorno si trova, che ne so, a fare le pulizie di casa e butti tutto, no? Perché per te erano il presente, no? In quel momento non c'erano senso, no? Sì. E invece oggi mi mordo le mani, perché se io vedo la copertina del primo List mi viene da piangere, cioè nel senso dico, porca miseria, cioè io non per un valore economico, perché non me ne, sì, non, sì, proprio perché oggi per me sarebbe bellissimo avercelo tra le mani e rileggermi gli stati, rileggermi le situazioni, insomma, che ci stavano dentro. E questo è, non so cosa ne pensate, anche se voi magari, ecco, più Carlo magari che c'ha più l'occhio dal collezionista, no? Quindi, sì, sì, lo raccontavo oggi perché parlavamo esattamente di quello e io ho detto delle famose quattro fasi di un oggetto, no? Sì. Che praticamente è un oggetto nasce che è nuovo, ok? E quindi tu lo usi, lo compri e lo usi. Poi c'è la fase usato, cioè lo compri usato perché costa di seconda meno, mano, ma lo usi comunque. Sì. Okay? Poi c'è la fase spazzatura, esatto, ingombra, per cui lo butto via. Sì, via. Sì, okay? Sì. E dopo c'è la fase vintage. Okay. Quindi tu quando sei nella fase spazzatura devi riuscire a capire che... ci devi avere quell'intuizione, quella premonizione, esatto. Perché lì... Esatto, quello che quando sei nella fase spazzatura è spazzatura, quindi nessuno pensa che poi c'è la fase vintage dopo. Quindi... Poi devi anche mettere in considerazione il fatto che comunque io perlomeno ero un ragazzino quando c'avevo il VIC 20 e quando mio padre ha portato il Commodore 64 dentro casa, cioè non mi sono neanche preoccupato del fatto di vendere il VIC 20. Per me il VIC 20 in quel momento era spazzatura, oggi è... era obsoleto, sì, esatto. L'obsolescenza. Perché oggi è la cosa, penso, l'oggetto che ho amato di più in tutta la mia vita, il VIC 20, cioè, nel senso, non, incondizionatamente e senza nessuno, e Carlo lo sa perché io insomma ogni tanto... Però quando è arrivato il 64 leva dei VIC 20, no? E poi oggi, perché poi noi antropomorfizziamo anche le cose, no? Oggi mi dispiace, l'ho trattato male il VIC 20. Vabbè. Infatti te ne ho regalato uno poi. Infatti me ne ha regalato uno e lo tengo gelosamente. Esatto. Comunque torniamo alle redazioni, no? Sì, niente, quando arrivavo le prime volte in redazione Bonaventura, Ferri il proprietario dava a Bonaventura del lei, sì. E a tutti gli altri noi ci dava del tu, perché sì. Bastavano appunto quei 8-10 anni di differenza, facevano tanto. Esatto. Beh, anche il fatto che appunto io ero sposato, per cui mi vedeva magari in un certo modo. Esatto. Gli altri erano dei ragazzi così nella loro fase proprio della gioventù spensierata, come si diceva prima. Però tu quello che ha chiesto Simone prima, io mi ricordo arrivavo e avevi lì il Mac 2 con il monitor a colori, con la stampante eccetera. No, lì il primissimo era proprio quello bianco e nero col monitor radius. A 16 toni di grigio, tra l'altro, quindi neanche 256 e 16 toni. Come si impaginava all'epoca? Io mi sì, come si costruiva graficamente anche una pagina, una rivista, e questo è curioso perché oggi io in realtà anche se ero giovane, in realtà avevo iniziato a frequentare il mondo dell'editoria giovanissimo, perché io ho già iniziato a 15 anni a andare per esempio in Systems Editoriale, dove facevano Commodore Computer Club, riviste eccetera, e lì l'impaginazione era completamente manuale. Sì, fotocomposizione. Esatto, sì, c'era il tavolo e veniva fatta proprio... ritagliando i come quando facevamo le riviste delle avventure, uguale con le pellicoline, la carta. Sì. Quello era il primo modo proprio in assoluto. No, no, però spiegatela bene, perché così non è che è chiaro. Sì, praticamente si faceva così: c'era un insieme di i testi erano fotocomposti, si usava la Linotype. Praticamente venivano fatte delle pellicole trasparenti con queste colonne di testo, venivano prodotte queste pellicoline, diciamo. E la parte illustrativa erano dei disegni fatti a mano. La Linotype era come una grossa macchina da scrivere gigante che stampava delle striscioline di testo, pellicola, sì, col testo sopra praticamente. Okay, sì, e quindi... poi si incollava come un collage tutto questo materiale, si creava la pagina che veniva fotografata, quindi fatta con la retrocamera, con la forbice, lo scotch, la colla, vabbè. Le cose su un foglio gigante che stava su un tavolo con una luce sotto, che poi veniva fotografata. Veniva fatta la foto con la retrocamera, praticamente si produceva la pellicola, quella completa, scomposta nei quattro colori poi di base. Ma cioè, quindi che tipo di fotocamera era, scusa? Aspetta, cosa hai detto? No, dico che tipo di fotocamera era, perché questo magari non è chiaro. No, si chiamava proprio retrocamera. Retrocamera. Era una macchina fotografica verticale che stava in cima al tavolo. C'era un braccio. Immagino tutte attrezzature super costose, insomma. No? Sì, altro che. Ma anche quando poi abbiamo iniziato a lavorare a fare proprio il desktop publishing, non c'erano ancora gli scanner a colori, alta definizione, eccetera. Quindi le foto arrivavano, a parte c'erano le foto che noi fotografavamo con la Polaroid, famosa, col tubo di cartone applicato allo schermo, e c'erano le foto che arrivavano dall'editore inglese in formato di, si chiamano trasparenze, le trennis, diapositive grosse. Esatto. Queste diapositive venivano lette con uno scanner che era fatto con un tubo di cristallo molto grande, che ruotando veniva letto, scansionato con una specie di laser, e si produceva la parte poi che veniva inserita nella pagina. quello lì costava una cifra spaventosa, cioè si parlava di centinaia di milioni per uno scanner del genere, sì, che poteva avere solo il fotolitista. Esatto, non ce l'avevamo noi. Esatto. Noi infatti tu facevi la rivista con Quark Express. Esatto, ma facevo il nero della rivista. Facevi il nero. Stampato con la laser su un foglio di carta normale. Poi si prendeva questa stampa e si andava di nuovo sul tavolo dove ci mettevi le foto, esatto, le cose, eccetera. E il fotolitista ricomponeva le pellicole poi dei quattro colori fondamentali per fare la rivista a colori. E poi ci arrivavano le quattro pellicole da controllare. Sì, e esatto, quella di dove perdevi la vista. Esatto. E che tu contro luce ti guardavi queste pellicole. E poi ti arrivavano le cianografiche dove perdevi l'olfatto. Sì, che c'era un odore. Vabbè, quindi era... Che venivano fatte con l'ammoniaca. Esatto. Quindi ti arrivavano questa rivista in un colore azzurrino, sì, quindi sempre monocromatica, però stampata in realtà, sì, ma che aveva assorbito l'ammoniaca per questa stampa, certo, diciamo temporanea. Sì, sì, quindi era terribile. Cioè, alla fine fare il direttore di una rivista all'epoca era come lavorare in miniera, fondamentalmente. Più o meno. Esatto. La quantità di agenti chimici indesiderati era sempre quella. E poi non parliamo degli orari a cui si lavorava. Terribile, altro che miniera, lì ci voleva il faretto la notte. Perché... sì, perché quando c'era la chiusura di rivista, per colpa di qualche redattore che non arrivava, esatto, proprio in orario, che è qui presente. Strano, di solito è così puntuale. Esatto, che no, diciamo che poi c'erano degli aspetti particolari. Ti faccio un esempio: le faccine di Zap erano comunque ritagliate e incollate sopra queste foglie bianco e nero. Sì. Quindi non è che li facevamo col computer. Il computer faceva la parte con il testo, nelle gabbie cosiddette, quindi impaginato nella sua struttura. Ma c'erano situazioni in cui, per esempio, tu avevi bisogno di fare una rotazione particolare, tipo di un effetto di un'immagine che era ruotata, e il software ancora non aveva l'opzione per ruotarti l'immagine o il quadrato dell'immagine, e quello tu dovevi fare tutto a mano, cioè prevedevi gli spazi e poi prendevi l'immagine, la stampavi a parte, la ritagliavi con le forbici, la incollavi con la colla stick storta sopra, così diventava l'immagine ruotata praticamente. Quindi anche lì c'era molto di artigianale, nonostante il programma di desktop publishing. Esatto. Praticamente era una via di mezzo ancora, sì, DTP, sì, ti serviva solo per saltare la linotype. Esatto, sì, sì, sì, che era tantissimo, anzi, perché poi sì, effettivamente poi c'avevi il controllo ortografico, avevi un sacco di però cose. Ma parla di quando sparavi i colorini a caso di sfondo. Vabbè, lì poi non ne parliamo, perché lì dovevamo dare le indicazioni al fotolitista per avere un verde, gli dovevi dare un tot di ciano, un tot di giallo, che erano due dei quattro colori, certo, primari. E certo, se sbagliavi la percentuale ti veniva fuori un verde psichedelico praticamente. Quindi lo scoprivi dopo questo. Molti numeri di TGM ti sembrano psichedelici per quel motivo lì. Poi pian piano anche perché non potevi dirgli le cose col famoso tampone, pantone, scusa. No, col no, pantone no, perché non si ha mai stampare in pantone, costava proprio l'ira di Dio praticamente. Lo poteva fare Wired all'epoca, ma non noi, perché non c'era ancora. No, infatti. E quindi gli davamo prima i colori un po' a caso, poi pian piano con l'esperienza e con gli errori, esatto, ovviamente cominciavi a farti le percentuali e te le scrivevi, te le annotavi. Certo. Beh, certo, questo è abbastanza affascinante, perché se noi, ecco, anche questo è un altro modo in cui al di là, no, di quelle che potevano essere le risorse, costruire comunque una rivista, o magari io ipotizzo anche un giornale, insomma, non penso che sì, ci fossero poi tutte queste grandi differenze, se non il fatto che magari il quotidiano, ad esempio, magari era solo in bianco e nero piuttosto che a colori, quindi sì, magari c'erano dei passaggi minori, no? Però chiaramente, cioè, è affascinante l'artigianalità, cioè siamo quella transizione tra l'era digitale e la stampa delle origini, insomma, pratica. Sì, sì, sì. Se parliamo degli anni Ottanta, sì, poi a me negli anni successivi, già dopo col nuovo millennio, nel 2005 più o meno, quando lavoravo con Future, gli davo i PDF pronti per la stampa, sì, cioè elaboravo, sì, tutto praticamente. Quindi si è passato nel giro di 10 anni, sì, sì, dalla manualità al tutto digitale. Quello è stata per esempio una tragedia per i fotolitisti. Io ricordo il nostro fotolitista Lavezzi all'epoca ebbe un tracollo, perché si trovò di fronte, ha dovuto buttare via macchinari che appunto costavano centinaia di milioni, sì, perché era diventato obsoleto, cioè non aveva più senso la sua realtà di servizi. Praticamente. Sì, sì, sì. E io facevo era successo con la Linotype prima. Sì, esatto. Sì. Io facevo i corsi in Jackson insieme a Sergio Ruocco ai fotolitisti, eccetera, per spiegargli che adesso si impaginava col computer. E una delle cose più divertenti che mi ricordo erano che questi all'inizio erano completamente, non volevano saperne, sì, no? Poi hanno iniziato a vedere, insomma, come funzionava, comunque i vantaggi che potevi avere utilizzando l'impaginazione col Macintosh, eccetera. E una delle frasi più belle che mi ricordo è stato quando uno: ah, ma allora non fa tutto il computer. Cioè, avevano capito che allora avevano ancora una possibilità di lavorare, nel senso che allora, questa è una cosa così faceva toc, impaginato tutto, capito? Sì, vabbè, questa è una cosa che ci siamo portati avanti molto tempo, anche se andava estinguendosi questo mito, no, del computer che faceva le cose, no? Così come abbiamo visto anche nel famoso libro, quello su Goldrake, no? Che alla fine c'era questi articoli che si scrivevano in Italia alla fine degli anni, anzi all'inizio degli anni 80, dove si diceva che, insomma, che in Giappone facevano sti cartoni animati dove c'era un cervello elettronico che faceva tutto. Sì, lui, sì, no? I cartoni Golder che erano fatti dal computer. Esatto, quando l'ha saputo quello della Toy si è messo a ridere, ha detto: qua non l'avevo mai visto un computer, cioè, neanche gli aspirapolvere. C'è gente che è diventata cieca a lavorare, insomma, veramente. E vabbè, no beh, appunto dicevo, insomma, grande passaggio, no, proprio epocale, su quello che poi dopo alla fine ogni generazione ha avuto delle agevolazioni, delle migliorie dal punto di vista tecnico, e magari, ecco, come dicevate, magari ci sono stati alcuni imprenditori che si sono trovati in difficoltà perché magari non hanno intercettato in tempo la possibilità di cambiare. Oggi, per esempio, gli strumenti difficilmente si acquistano quando sono strumenti di grossa entità, ma magari si noleggiano, no? Si prendono in leasing, si utilizzano tutta una serie di formule che magari allora non c'erano, e quindi tu compravi il macchinario da 100 milioni e poi magari dopo 10 anni te era cambiata la vita e te lo davi sui denti, insomma, ecco, questa deve essere abbastanza una tragedia, diciamo. E come si comportavano questi ragazzi in redazione? Guarda, allora quello che salvava la situazione era il fatto che avessero a che fare con me, perché se avessero avuto a che fare direttamente con l'editore sarebbe stata una tragedia. Cioè, io gli davo tanta libertà perché, nonostante la differenza di età, che appunto in quella fascia d'età era marcata, perché parlavamo appunto dai 12, 13, 14 anni, 15 anni, metti 10 anni e arriva a 25, 23, 24, 25, certo. Quindi è notevole il balzo generazionale, però per me era ancora, cioè io mi sentivo ancora ragazzo, nonostante fossi sposato, nonostante avessi delle responsabilità di lavoro, eccetera. E poi ovviamente, trattandosi di un ambiente in cui si parlava di videogiochi, sì, il clima era comunque sempre scherzoso. Quando si scriveva c'era un'ampia libertà anche nell'espressione, cioè io non ho mai imposto particolari vincoli a loro sul fatto di come scrivere qualcosa, perché poi mi piaceva, tranne correggerci l'italiano, sì, che faceva schifo, però, però diciamo quei testi trasudavano la passione, l'entusiasmo che poi veniva trasmessa anche ai lettori. Quindi magari cominciava la rivista cominciava col mio editoriale, anche entusiasta, però particolarmente con un taglio magari più giornalistico. Dopodiché c'era libero sfogo a tutte le varie storie, anche perché poi quando si parlava di un videogioco capitava che, finché il videogioco aveva già tracciato una trama, uno schema, un qualcosa che si poteva descrivere utilizzando il format del videogioco o comunque quello che le istruzioni o l'autore aveva già detto, e quando non c'erano queste cose bisognava inventarselo, cioè bisognava inventarsi una storia, inventare un qualcosa come background del videogioco. Non è che potevi dire semplicemente la grafica è bella, sì, anche se all'inizio facevamo tante traduzioni, sì, venivano personalizzate molto, le utilizzavamo tantissimo, sì, tra l'altro c'è una cosa che vedendola da lettore, che magari adesso non so, magari già ve l'hanno fatto presente o qualcuno già ve l'avrà domandato, no? Però capitava non solo in TGM ma in generale nelle riviste di videogiochi, anche Zap, anche K, poi successivamente quelli che sono, questa cosa dell'articolo, quindi la recensione con tutta una serie di note inserite da altri redattori, perché era il processo di redazione, perché c'era la prima bozza che portava il redattore, io, sì, che poi passava alla correzione del Dici capo che era Marco Auletta per, sì, un, bel po' di per un bel po' di tempo. È stato Marco. Poi quella passava a te, che esatto, facevi la correzione finale, sì, l'impaginazione, finale. E poi veniva impaginata. E poi dopo c'era la correzione ultima sulla il disastro della correzione sulla foto, sulla pellicola. Sulla pellicola, sì. Perché è una cosa che abbiamo detto: se arrivava la pellicola, che all'ultimo controllo ti accorgevi di un errore, non potevi rifare la pellicola, non c'era tempo. Allora si andava col taglierino, lo sgarzino a grattare via la parola che non andava. Cercava di fare il meglio, diciamo. A volte anche a ritoccare col pennino. Oppure c'era il famoso nastro adesivo rosso. Sì. Che esatto, copriva, era una specie di censura, esatto, copriva. Madonna, ragazzi, terribile. No, però c'erano gli ND che venivano inseriti, ND, sì, perché io scrivevo una cosa, poi Marco mi rispondeva, sì, scrivendo nel mio nota del no, ma infatti questo era divertente, perché c'era poi questo batti e battuta e risposta, che poi era tipo nota di MA, NDMA, NDC, esatto, bravo, Carlo Sant'Agostino, NDR, c'eravamo inventati anche le note, esatto. E poi la cosa che tanti dicevano, no, che magari vedi questi si divertono, poi c'era sempre uno, ma che questi non si divertono, questo è tutto finto, fanno finta di essere gente che si diverte, invece cioè, comunque la percezione è il divertimento di leggere la rivista, perché tu magari della stessa età in qualche maniera ti ritrovavi, no, cioè in questo, sì, sì, e poi li invidiavi, no, cioè tu dicevi madonna che figo che sarebbe questo lavoro, no, nel senso, perché poi secondo me deve essere stato anche comunque bello, appassionante, divertente, soprattutto appunto in un'epoca in cui dovevi correggere le parole col pennino, insomma, perché immagino lo stress, perché posso immaginare lo stress a un certo, sì, modo. Lo stress era più che altro sui tempi di lavorazione, sì, anche se l'età gli, sì, aiutava, perché essere, sì, giovani, sì, sì, saltare una notte non ti pesava, no, assolutamente. Io ho fatto, c'è stato proprio una, non mi ricordo, un numero dove ho lavorato per 24 ore ininterrottamente per chiuderlo, quindi senza dormire. Madonna. Praticamente ho fatto 24 ore continue senza neanche mangiare, cioè, c'era la mia moglie di allora, mia ex moglie, mi portava il panino, il tramezzino mentre lavoravo, poi il caffè, cioè, però io continuavo a stare lì davanti al computer per 24 ore di seguito. Madonna mia, cioè, terribile. Tutte cose che abbiamo pagato poi con gli anni, giustamente. Esatto, le diottrie. Esatto. Va bene, comunque io c'ho una domanda che un po' esula da questa cosa, poi se c'avete altri racconti in merito a questa questione redazionale possiamo tranquillamente farlo, però a Buonaventura vorrei domandare se, guardando insomma questi ultimi 40 anni, diciamo così, no, qual è la cosa di cui oggi sai che non potresti fare a meno e quindi non torneresti mai indietro, e la cosa che invece ti manca perché comunque era una cosa che faceva parte della tua vita o delle tue abitudini, che oggi non sarebbe proprio più applicabile o non esiste proprio più come oggetto, come situazione, qualsiasi cosa, insomma. È una domanda un po' complicata, non male. Allora, forse è un po', forse le due risposte si potrebbero somigliare, nel senso che quello che io oggi apprezzo tantissimo, come, tornando al discorso della lettura, come lettore, come amante dei libri, è la realtà degli ebook, cioè la possibilità di poter avere in un unico dispositivo, in un archivio molto ridotto come dimensioni, anche migliaia e migliaia di volumi, sì, di testi, di titoli, diciamo così. Molto di più di quello che può essere la musica o i video, che occupano molto più spazio. Gli ebook occupano uno spazio veramente esiguo, parliamo degli EPUB in generale. Certo. Quindi avere la possibilità di potersi, diciamo, lo dico anche da nomade digitale, cioè da persona a cui piace viaggiare, cambiare sempre posto dove abitare e così via, il fatto di poterti portare la tua biblioteca in tasca, diciamo così, e poterla leggere con la qualità degli attuali strumenti di lettori a inchiostro elettronico, che sono quasi simili alla carta, è impagabile, cioè è un qualcosa che io non avrei neanche sognato in passato, perché appunto la lettura all'epoca era sui monitor, quindi comunque era molto scomoda, certo, e non potevi portarti il monitor appresso col computer, assolutamente non c'era neanche il portatile all'inizio, quindi assolutamente. Quello che mi manca rispetto a prima è forse, non è la fisicità in questo caso dei libri, è il senso della diciamo dell'ordine, della concretezza, il fatto di guardare uno scaffale e distinguere le cose che sono al loro posto, che è diverso dall'avere una specie di catalogo di quello che c'hai sul disco, per capirci. Cioè il senso dello spazio dove sono strutturate le cose, e quello è qualcosa di analogico in questo senso. Forse è quello, parlando sempre dei libri, mi riferisco sempre a quello. E soprattutto dal punto di vista della fisicità, il discorso di, ecco, in questo caso per esempio, per quanto sia comodo avere le foto nel proprio smartphone, mi manca tanto l'album di fotografie. Certo. Anche perché le foto hanno perso valore da questo punto di vista, cioè nel senso, avendo archivi di centinaia di migliaia di foto che magari a volte ti perdi il telefonino, dici mannaggia, c'erano le foto, vabbè, chi se ne frega, no, nel senso, per me oggi... Sì, ma non siamo neanche spinti per dire a fare una selezione di queste foto, perché adesso ci sono i servizi dei fotolibri, tu ti fai una selezione delle foto e te le stampi, sì, no, invece non c'hai proprio lo stimolo per farlo, no? Tutto esatto, solo. Esatto, gli diamo meno importanza, gli diamo meno valore alle foto che scattiamo, questo è triste un po' triste, sì. Perché comunque prima il rulino 36 foto costavano e quindi alla fine quello che facevi te lo conservavi di più, no? Forse anche questo non è solo la questione del rapporto fisico, ma proprio al di là della qualità, della bellezza magari della pellicola, tutti quei discorsi di contorno che magari sono importanti, come no, è secondo me proprio il valore che avevano le cose che giustamente gli davano poi la giusta importanza. Filimberto dice AutoCAD ma fa tutto il computer. Cioè, perché giustamente tu c'hai un software che si chiama AutoCAD, quindi te lo dice proprio, cioè lo fa tutto da solo, cioè è inutile, già, esatto. C'ha ragione. Invece c'è PRG che ci scrive: io comprai, probabilmente PRG è un po' più giovanotto, io comprai alcuni numeri di una rivista ma non ricordo il nome, mi ricordo però che nell'angolo della posta c'era un lettore che si faceva chiamare Lord Neo Geo, che perculava i possessori di altre console. Guarda, io non me lo ricordo, non so su quale rivista fosse. Può essere Super Console, Consolemania, sì, però sta cosa delle lotte anche negli angoli delle poste, le varie riviste, le Flame Wars, no? Sì, assolutamente. Era come uno 64 Spectrum, sì, fino a che poi non è arrivato Sant'Agostino a fare la posta, e lì è diventata una noia incredibile. Ma questo adesso lo vedi nei gruppi Facebook. Sì, no, vabbè, ma questa è una cosa. Allora, oggi poi è esplosa all'ennesima potenza, no? Questo tipo di fenomeno, che poi c'è sempre stato, sì, è un po' la sindrome. Anche nelle automobili c'è stato. Esatto, nelle squadre di calcio, nella musica, in tutto c'è questa cosa di doversi dividere, no? È bello essere appassionati e di avere un gusto, chiaramente, ma non per questo quello deve diventare una cosa faziosa per dire che comunque la musica ascolto io è più bella della musica che ascolti tu, insomma, è un po' ridicolo, no? Diciamo così. E invece la domanda che ti vorrei fare, poi rispondimi come vuoi, perché magari forse, cioè, nel senso, non voglio entrare poi giustamente nel merito delle cose. Però, diciamo, che percorso di vita hai fatto tu e quanto quel percorso che tu hai fatto è dovuto, io dico anche professionalmente, no? Nel senso, è dovuto al fatto che comunque a un certo punto della tua vita tu hai incontrato appunto l'informatica, diciamo così. È influito tantissimo, cioè aver incontrato l'informatica, diciamo che è stato... ha stravolto appunto lo stile di vita, nel senso che se tu incontri l'informatica e la consideri semplicemente uno strumento di lavoro, allora viene relegata in quell'orario che, certo, diciamo, è il tuo orario di lavoro. Quando hai chiuso, quando hai spento il computer, diciamo così, hai finito di lavorare e fai tutt'altra cosa, ti dedichi alle tue passioni, ti dedichi ai tuoi hobby e così via. E purtroppo quando invece l'informatica diventa un qualcosa da esplorare, che stimola la tua curiosità, lì non esiste orario, non esistono giorni di ferie, non esistono giorni di festa, e ti ritrovi comunque lì perché il tuo lavoro è anche il tuo divertimento, cioè il tuo passatempo è anche il tuo lavoro e viceversa. Quindi alla fine l'aver incontrato il computer ha praticamente assorbito totalmente il mio tempo, le mie energie, nell'arco dei decenni, è stato quello, appunto, da farmi trovare magari In periodi di vuoto, dove cercavo comunque di inserire il computer anche se facevo un altro lavoro, cioè lo inserivo a quel punto come hobby piuttosto che come lavoro, però facevo tutt'altra cosa. È cambiato poi ovviamente negli anni l'uso che ne facevo, perché magari all'epoca appunto delle avventure costruivo giochi di avventura, le sviluppavo quelli, all'epoca delle riviste di videogiochi mi interessavo di videogiochi e facevo il caporedattore oltre che l'impaginatore. Poi quando non ho seguito più le riviste ho fatto il grafico, quindi creavo i loghi, facevo le cose per le tipografie. C'è stato un periodo in cui facevo le cose multimediali, quindi dei touch screen, programmavo dei sistemi di consultazione di contenuti, sistemi cosiddetti web, no? Poi ho fatto i siti web, poi mi sono dedicato appunto ai libri piuttosto che alle riviste, e quindi è cambiato man mano l'utilizzo del computer a seconda delle finalità, e poi di internet quando è arrivato anche internet, ma è rimasto parte integrante di tutte le attività che svolgevo, sia di lavoro sia di svago, diciamo così, o di studio, di ricerca. Quindi ha riempito la mia vita in un certo senso. Certo. Questo è un qualcosa che ti cambia la vita, sicuramente. Beh sì, perché poi è stata un'ondata che ci ha investito, ma pure Carlo, no? Vedi che poi alla fine comunque ha basato la sua esistenza su quello che non è stato soltanto un lavoro, quindi rapporto orario d'ufficio, ma come hai detto te è stata sì. Poi una passione, no? Cioè una cosa che ci ha travolto un po' tutti da sto punto di vista. Proprio oggi si parlava del discorso dove che lavorare quando si parlava di Quake. Sì. Che magari si lavorava una giornata intera, si aspettava la fine della giornata di lavoro per sfidarsi in rete con Quake, praticamente. E si stava comunque a lavorare, si rimaneva lì davanti al computer. Ecco, che poi questa è un'immagine che noi non ci abbiamo mai avuto, no? Perché noi, cioè nel senso, sentendo le varie storie, tu come caporedattore, no? Però poi alla fine eri comunque più grande e comunque leghiamo anche la tua immagine a quella delle avventure testuali in maniera particolare, che è un mondo quasi più, che ti dà quell'immagine un po' più austera, un po' più seria, no? Poi la domanda è: perché ma in realtà quella delle avventure testuali è stata il periodo prima di sì però vabbè, lui comunque cioè, lui il nome, cioè, se lo porta dietro, no? Cioè, nel senso, sì. la sua fama, secondo me, è derivata anche è molto, molto anche da quello, no? Allora mi sono sempre domandato: ma Buonaventura di Bello, poi i videogiochi gli piacevano? Che sì. Può sembrare una domanda stupida, ma non lo è. No, considera che vabbè, da ragazzo, comunque, nonostante mi trovassi in una realtà di provincia dove appunto c'è l'accessibilità. Non esistevano le sale giochi, per esempio, però ti arrivava il cabinato al bar, per cui mi capitava di lasciarmi coinvolgere, vabbè, prima i flipper ovviamente, poi quando sono arrivati i primi Pong oppure i primi videogiochi tipo Pac-Man e così via, me li godevo, mi piacevano. Sicuramente facevo parte comunque di una minoranza in un ambiente come quello del paesino di provincia, perché gli altri ragazzi preferivano andare a giocare a pallone, certo, e tante altre cose. Cioè, io invece magari mi appassionavo davanti a quei cabinati e ci giocavo. Come ti chiamava tuo papà, hai detto oggi? Sì, Persikov, come lo scienziato pazzo, quello di Uova Fatali. Che stai sempre lì. Sì, poi c'era un po' proprio la passione anche per l'elettronica in generale, che non ho potuto mai. Ecco, quella è una cosa che potrei rimpiangere, tra virgolette, perché prima dei computer c'era l'elettronica, avrei voluto studiare l'elettronica e imparare a costruire, a montare dei circuiti, a montare che non l'ho potuto mai fare questa cosa qui, perché sono stato assorbito poi totalmente dall'informatica. Da lì c'era il corso di scuola di elettrica dove ti costruivi il computer basato su Z80. Sì, esatto. E quello Z80 ero stato tentatissimo di farlo, perché univa l'elettronica alla programmazione, quindi. Però è rimasto un sogno quello nel cassetto, praticamente. Quindi ne abbiamo recentemente ricostruiti un paio, no? Vedi, alla fine tornano anche quelli. Giorgio Morocutti. Sì. E tornando ai videogiochi, appunto, io quando li giocavo, a volte c'è stato un gioco che in redazione, quando si finiva di lavorare, la sera mettevo e lo giocavo che non l'ho finito, Obliterator. Della Psygnosis, a cui ho dato la medaglia d'oro, che nessuno ha detto ma perché gli ha dato la medaglia d'oro, fa schifo sto gioco, io in realtà me l'ho divertito tantissimo e quindi gliel'avevo attribuita in base alla mia esperienza di gioco, praticamente. Quindi sì mi piacevano sicuramente, mi piacevano le avventure quando le programmavo, poi certo. Quando le giocavo oltre a sviluppare, infatti erano troppo difficili perché le giocavi. Esatto. Beh, però in una recente, non troppo recente, ma recente intervista proprio fatta a noi, Bonaventura dichiara di essersi pentito di alcune scelte, no? Nel senso di alcune difficoltà, no? Che magari sì, allora non erano così bilanciate, perché assolutamente, assolutamente, perché io ero convinto, dato che comunque nel tempo ristretto a disposizione per sviluppare tutti quei giochi, che diciamo che erano comunque, anche se erano 12, erano almeno 6 storie diverse ogni mese. Quindi per sviluppare 6 storie diverse ogni mese non potevi creare un'avventura che avesse tipo 100 luoghi, 100 stanze, come si diceva in gergo, location, no? Ne la dovevi fare con 20-25, un numero limitato di oggetti e di situazioni. Però molto difficile. Però dovevi renderla difficile perché fosse longevo, cioè fosse giocabile per lungo tempo, altrimenti le persone la risolvevano in mezz'ora e diceva: vabbè, che gioco è? Certo. Non ha senso. La più difficile che ti ricordi? No, ma avevano, guarda, la maggior parte purtroppo aveva proprio un inizio difficile, cioè ero veramente bastardo in alcune cose. Libertador, per esempio, Libertador, tu ti svegliavi in una cella e a un certo punto, dopo due o tre mosse che facevi, ti lanciavano una bomba nella cella. Per cui tu, se non capivi veramente come scappare o come difenderti, continuavi a morire. Cioè. Ma la stessa cosa il ladro di Camelot, che era ti svegliavi dentro una cella di quelle nel pavimento, avevi la grata in alto, sì, sotto e lì, terra. Uscire da lì era un'impresa impossibile, perché dovevi riuscire a capire che nella parete della cella, spostando un blocco di pietra, c'era nascosta un'anfora con dentro un sortileggio che però dovevi usare in un certo modo, se no ammazzava te. E quindi in realtà la dovevi prima scoprire tirando fuori sta pietra, poi mettere l'anfora in un certo modo, usare una cordicella per tirare il coperchio dell'anfora, perché dovevo uccidere la guardia sulla grata e non te dentro la cella. E quindi ti puoi immaginare, cioè la gente mi avrà maledetto chissà quante volte quando ha iniziato a giocare quel gioco lì, il ladro di Camelot si chiamava. Io me ne ricordo una, ma ti maledivo non per te, ma per il Parser. Ah, ecco. Perché il Parser riconosceva, e pensa che c'era molto impegno nella riconosceva solo quattro parole, le prime quattro le lettere, prime quattro lettere delle parole. Sì. E tu avevi messo che se diceva uno diceva parolacce, sì, si resettava il gioco. Esatto. E dovevi ricaricarlo. Prima ti avvisava, poi si resettava e dovevi ricaricarlo. Io avevo caricato il gioco che già ci voleva un quarto d'ora su cassetta per caricare il gioco. Poi ero in cima a una collina e c'era un fiore. Non mi ricordo che avventura e era. E c'era Cogli. E io dicevo: cogli il fiore, però cogli. Era cogli. Erano le prime quattro lettere di un'offesa. Non dire parolacce. E io, ma non ho detto parolacce, ho detto cogli il fiore. Ecco, adesso rilassati. Ma perché cogli? Scusa, basta scrivere. Io scrivo prendi. Cioè, nel senso. Vabbè, nel senso la parola è prendi, perché cogli. Certo che la prendi. Ma io anche raccogli. Io in realtà. Solo che nel dizionario le parolacce ce n'era uno che cominciava con cogli. Che poi mi pare che dopo due o tre volte si resettava il gioco, può essere, usciva dal gioco. Sì, due o tre volte si resettava. Sì, la prima volta diceva: ma perché parli così? Non è offensivo. Poi dice: guarda, non ti permette di farlo un'altra volta. Poi dice: ah, adesso mi hai stufato, ti resetto il gioco. Si resettava. C'era della malvagità in tutto questo. Senti, ma al di là delle avventure testuali di cui abbiamo parlato e probabilmente torneremo a parlare anche nel futuro, poi la narrativa in che modo ha fatto parte della tua vita in senso più creativo? Perché poi so che tu più o meno, insomma, te li sei sempre un po' cimentato, se non mi sbaglio. Sì, considera che le avventure avevano prima di tutto, era una storia, c'era un personaggio, c'erano dei personaggi, c'erano degli enigmi da risolvere, c'era un finale da raggiungere, quindi in realtà tu dovevi inventare una storia. La differenza era che non eri costretto a scriverla sotto forma lineare, narrativa, ma la spalmavi all'interno di una serie di come un puzzle, in tanti pezzetti di questo puzzle. Però la parte iniziale era l'incipit di quella storia, era una o due pagine di introduzione narrativa alla storia, che serviva a far calare il giocatore nella storia vera e propria. Quindi in realtà era l'inizio di un racconto, se vogliamo, quindi la narrativa da quel punto di vista nell'ambito delle avventure era un'espressione di quella voglia di scrivere. La narrativa in realtà io negli anni precedenti l'ho sempre fruita passivamente, perché appunto i romanzi, soprattutto di fantascienza, riempivano le mie giornate, ne ho lette centinaia e centinaia nel corso degli anni, a cominciare dalle scuole medie praticamente, anzi forse dalle elementari, perché già nella biblioteca delle scuole elementari avevo trovato qualche libro per ragazzi di fantascienza. Poi dopo alle medie ho trovato un'intera collana, dopodiché ho scoperto gli Urania e diventato... Tra parentesi, ce l'hai ancora in soffitta gli Urania? Sì, c'ho ancora gli scatoloni pieni. Sì, ecco, sì, ricordati che vanno salvati. Esatto, ecco, il discorso vintage in quel caso. E quindi la narrativa è stata quella, però in realtà oltre alla narrativa c'erano appunto anche i film. Cioè, alla fine tutta la filmografia degli anni Ottanta ha influito anche su molte delle mie avventure. Anni 80, anche gli anni precedenti, quindi anni 70 e così via. Quelli precedenti, tutti i film che avevo visto, c'erano degli ingredienti, dei pezzetti di storia o di personaggi e così via, che andavano a inserirsi all'interno delle avventure, magari come un po' come i rimandi che fanno adesso, come dicevamo prima, in Stranger Things, che vai a richiamare qualcosa dei sì. film degli anni 80. Sì, sì. In quel caso richiamavo pezzetti delle storie, dei romanzi che avevo letto, dei personaggi, anche i nomi, molti nomi, cioè Terry Jones era Jones come Indiana Jones, era un esploratore. Certo, che poi voglio dire, come non essere stati condizionati da Indiana Jones, insomma, nell'epoca, assolutamente, nella nostra epoca, assolutamente. Io lo adoravo proprio. Tra l'altro qui in chat c'è qualcuno, Luca S, che ci mostra una foto di un'avventura testuale in italiano, quindi suppongo che sia la tua, e vediamo che cosa ci dice. Ti occupavi anche della grafica? Ti domandano. Sì, tra l'altro la grafica era una sfida, perché praticamente, ecco, questo qui è proprio il ladro di Camelot. Ladro di Camelot è proprio quello, la schermata del ladro di Camelot. La grafica era una sfida, perché non potendo utilizzare la grafica bitmap, quindi non potendo disegnarla con una tavoletta grafica o con la penna otta, sul comodo c'era il Qualapad all'epoca. Sì. Infatti quelli che facevano le avventure prima di me le disegnavano col Qualapad, ma tutto lo spazio in memoria veniva assorbito dalla grafica. Certo. E il parser, cioè il dizionario, era limitatissimo, dovevi indovinare la frase esatta che avevano previsto loro per andare avanti. Sì. Quindi era terribile, infatti terminarono presto quelle avventure lì, non riuscivano a vendere a un certo punto. Loro erano, le facevano per Commodore 64, infatti l'editore poi mi chiese a me di farle per 64. Lo strumento che usavo io, che era, si chiamava The Illustrator, come il programma di grafica di Adobe, era vettoriale, quindi che anche quello di Adobe è vettoriale, infatti, sì, dovevi disegnare tutto usando delle linee, sì, praticamente, sì. E poi riempire gli spazi con del colore, esatto. Oppure con dei pattern, con degli schemi di colore, che se puta caso le linee non si congiungevano bene quando facevi il riempimento, colorava tutto. Sì, a volte venivano a cancellare, però era anche un effetto, vedi, che per esempio lì nel muro è un effetto che magari dà un senso anche della naturalezza del muro, cioè la parte che si vedeva il mattone, la pietra, l'altra parte dove magari invece non si vedeva, sì, sì. Poteva sembrare anche realistico, anche il suolo, diciamo così, però dovevi proprio cercare di far immaginare alla persona con un disegno molto sintetico la scena, che era quella la sfida poi alla fine. E anche disegnarla a mano era abbastanza complicato, perché dovevi fare tutto col cursore, con i tasti, quindi ti puoi immaginare, ce ne andava parecchio. Quindi erano, cioè tu disegnavi per vettori, ma in che modo? Cioè scrivendo le coordinate, oppure c'era un... No, usavo il puntatore, tenendo premuto tracciavo la linea con una specie di elastico, come si fa con la grafica. Ok. E dicevo dove iniziava e dove finiva, e poi riempivo... Lo muovevi con i tasti cursore, però, quindi destra, destra, sinistra, su, giù. Sì, esatto. E poi c'avevi il tasto che, come nel logo che dicevamo oggi, teneva il pennino giù, esatto. Per cui tracciava la linea, e poi quando lo interrompevi ti fermava la linea. E questo lo dovevi fare appunto per tutte le linee, già immaginando la scena, perché certo. Dovevi, erano molto anche abbastanza geometriche, ma non sempre, perché poi ci sono state anche storie fantasy che avevano dei disegni abbastanza evoluti, sì, fantasiosi, proprio fatti molto con gli alberi, con la scena, col drago, con varie cose, e perdevi un sacco di tempo. Sì, l'MSX è un solo testo, perché il problema degli MSX era che l'MSX base era quello da 48K standard, non aveva proprio spazio per la grafica, cioè già dovevo fare un lavoro già sul listato basic per farcela entrare. Veniva filtrato e venivano tolte tutte le parti. Ti ricordi che c'era quel lavoro che si faceva per ripulire il basic e renderlo più leggero? Sì, togliere gli accapi. Gli accapi, esatto. Quindi veniva proprio ridotto al minimo e ci stava giusto in memoria, cioè non riuscivo. Però il vantaggio è che poi le hai riciclate tutte tu o qualcun altro, non mi ricordo, per farle per su il DOS. Sì, qualcun altro se le fregate praticamente, le ha rivendute a un altro editore e le ha pubblicate per MS-DOS. Sì, sì. Beh, ma d'altronde noi siamo stati il paese, no, di questo. Infatti. Quindi ti raccontavi delle cose su Fairmont. Sì, fatto delle cassette con i giochi piratati. Vabbè, quello a quell'epoca lo facevano tutti, quindi. Sì, no, quello poi è successo anche dopo, quello dell'MS-DOS è successo, ma io l'ho saputo dopo tipo 20 anni, non l'ho saputo subito. Mi è capitato di vedere, di cercare su internet i miei giochi per MSX, mi è comparso il titolo, avevano lasciato tutto intatto, non è che avessero cambiato neanche il titolo. Avevano preso i tuoi listati, avevano preso pari e portati. Tra l'altro ero un ex collaboratore della casa editrice dove lavoravo io, quindi... Ha fatto il riciclone. Sì, chissà quanto ha preso, tra l'altro. Io magari mi facevo pagare anche meno per quelle che facevo. Lui le ha vendute riciclate, ci ha guadagnato anche di più, probabilmente. Guarda, non mi stupirei di questo. Sai che tra l'altro c'è una software house italiana che produce un tools per la scrittura d'avventure testuali, adesso non ricordo bene come si chiamano, anche se poi li seguivo, che ha scritto praticamente un framework per VIC-20, insomma, per scrivere avventure testuali, molto ottimizzato, però chiaramente poi suggeriscono comunque di usare un emulatore non con i 3K5, ma con i 16K. 3K5 di RAM, no, dice lì non è tanto per lo strumento in sé, quanto ovviamente c'è lo spazio per scrivere la storia, nel senso che Testo, già il testo da solo, se lo converti i caratteri in byte, alla fine non è che c'hai molto in 3K. Esatto, anche se c'era qualcosa, se non mi ricordo male. Le avventure erano su cartuccia. Quindi avevano i 16K della cartuccia. Okay. Sì. Come col Texas Instrument, tra l'altro. Molte erano su cartuccia. Vabbè, Carlo, c'hai tu qualche domanda, qualcosa da aggiungere? Perché poi alla fine abbiamo... la diretta non prevista poi alla fine abbiamo spaziato addirittura sull'intelligenza artificiale, la singolarità, esatto. sugli NFT, le blockchain, tutto. È stata una giornata è stato bello, immagino, mi spiace di non essere stato, perché insomma sarebbe piaciuto anche a me, ma d'altronde se uno lo dice gli ultimi 3 minuti, no? se no sarei venuto, veramente mi sarebbe piaciuto. Tra l'altro oggi sarebbe servita un'altra macchina e quindi magari poteva venire Simone con un'altra macchina, c'era da caricare altra roba. Vai, carichiamo. Ah, quindi tu sei andato a prelevare Carlo. Certo. Carlo, quando si muove Carlo sempre si muove per prelevare, giusto? Allora facciamo così, promettiamo a Simone che il prossimo recupero ci sarà anche lui. Va bene. Quindi faremo una puntata magari insieme in live, tutti quanti insieme, sarebbe bello. Sì, mi porto direttamente l'attrezzatura, guarda. E parleremo del recupero, tra l'altro, parleremo degli oggetti del recupero. E questo infatti sarebbe un ottimo tema che avremmo potuto, però sai, oggi abbiamo recuperato tanta cosa dei tuoi vecchi studi dove lavoravi, perché ovviamente sono cose che vanno comunque preservate. Infatti ho recuperato lo Spectrum. Sì. Dove Bonaventura ha scritto le sue prime avventure. Esatto. Quindi tu nel museo ci metterai il cartellino. Sì, e il monitor, il monitor che era collegato a quello Spectrum. Esatto. Ci ha messo le mani Bonaventura di bello. Tra l'altro c'era una foto, se non ricordo male. Esatto, ma lui vuole ricostruire proprio. Io voglio ricostruire quella foto lì. Senza me, ovviamente, solo con gli oggetti. Esatto. No, vabbè, poi il ragazzino la facciamo in Unreal Engine, dai, senza. No, perché tu pensa che comunque una ricostruzione di quella postazione ha un certo valore storico. Sì, per sì, è vero, che scherzo. Sì, voglia. La mettiamo nel metaverso con il mio avatar dentro. Va bene, ragazzi, siamo tutti ragazzi qua, no? Alla fine. sempre ragazzi, hai detto bene. Io ringrazio Carlo per questa incursione, così almeno ci ha dato l'opportunità anche noi di fare nuovamente una bella chiacchierata con Buonaventura, che è sempre un piacere, tu lo sai, insomma, è inutile che te lo ripeto 50.000 volte. È reciproco. E quindi ringrazio anche Buonaventura e anche gli ospiti lì che insomma hanno pazientato durante Gabriele. Tra cui Gabriele, infatti. Tra cui Gabriele, che insomma è entrato in chat prima. Grazie Buonaventura, grazie a tutti. Grazie a voi. È stato un piacere, ci rivediamo noi per quanto riguarda quando eravamo futuro, sicuramente giovedì prossimo, e appuntamento a domani mattina con le live di Runtime Radio dalle ore 7, come sempre, insomma, perché oramai questa diventa una radio seria, noi stiamo sempre qui a far live. Va bene, poi un giorno spero che qualcuno ci pagherà anche. Arrivederci, buonanotte. Buona serata, ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao. Quando eravamo futuro. Un programma antologico, monodirezionale e spazio-temporalmente dislocato. A cura di Carlo Sant'Agostino, Roberto Tomaiuolo, Davide Gatti e Simone Pizzi. In diretta tutti i giovedì sera alle 21.30 solo su Runtime Radio, www.runtimeradio.it. Potete anche riascoltare tutte le puntate in podcast su Spreaker, Apple Podcast e tutti i maggiori aggregatori.